Radio. IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Fin dai tempi dei primi computer negli anni che seguirono la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si usava a parlare di electronic brain, cervelli elettronici, circolava una prospettiva molto affascinante. Il calcolatore un giorno ci darà le opere che Bach non ha potuto comporre per l'ovvia brevità umana della sua vita. Sono passati quasi 80 anni e di queste opere non si è vista traccia, anche perché, questo va detto, la ricerca si è impegnata in algoritmi di maggiore utilità con più applicazioni. E bisogna anche ricordare che già in quegli anni, 1946-1950, c'era chi sollevò un potente interrogativo: ma poi di centinaia di nuove fughe di Bach cosa diavolo ce ne facciamo? Non era un modo ironico di liquidare la prospettiva. Il tema ha una sua valenza culturale, perché l'opera d'arte è comunque un messaggio che non può essere sfibrato, diciamo così, da processi quantitativi. Questione aperta comunque, apertissima, sulla quale non mi soffermo. Ma è possibile questa cosa? Oggi si sono fatti passi enormi rispetto ad allora. Infatti siamo qui a parlare di intelligenza artificiale. Nessuno si cimenta con Bach, ma con il rock sì. In Inghilterra c'è un gruppo di ricercatori musicali che ha creato un sito, JukeDeck, nel quale si possono produrre brani musicali, nel senso che cliccate su un genere, rock appunto, o ambient o pop, ce ne sono una decina di variabili, poi scegliete qualche altra variazione da inserire nella composizione e l'algoritmo vi tira fuori il pezzo. Lo potete anche scaricare per 90 centesimi. Sentiamone qualcuno. Questo è rock. Beh, insomma, c'è da lavorare. Anche questo pezzo. Nel terzo si vede un piccolo miglioramento. Invece con la musica ambient se la cava un po' meglio. Questo è una seconda opportunità. Adesso andiamo al genere pop. Anche qui, insomma, c'è uno sforzo. Questa è un'altra possibilità. Va bene, dai, sta imparando. Comporre musica è certamente un atto creativo, però nei conservatori si insegna composizione, no? E questo significa che vi sono delle tecniche di base, come del resto in tutte le azioni creative, ricordiamoci. L'algoritmo di JukeDeck ci ha messo del tempo per apprendere come comporre. Gli hanno dato da sentire migliaia di brani, l'hanno guidato pure in questo apprendimento. Dove arriverà? Difficile dirlo. E da quello che abbiamo sentito, di strada da fare ne ha. Questa è intelligenza artificiale? Perché in queste puntate che mancano di intelligenza in prima linea, la domanda ce la dobbiamo fare. Vabbè, si può dire di sì, perché c'è una forma di apprendimento. Non si utilizzano le elevatissime velocità che i computer possono esprimere oggi per fargli fare a JukeDeck qualche milione di tentativi di assemblaggio casuale di note finché esce un pezzo sensato. Forse vi ricordate quando girava il seguente interrogativo: se diamo a una comunità di scimmie una macchina da scrivere, loro certamente si divertiranno a battere sui tasti. Accadrà ad un certo punto che su un foglio appaia una poesia di Montale? Ecco, da quella parte non c'è nessuna intelligenza, c'è solo il caso. Bisogna stare attenti di questi tempi a certe immagini fascinose che arrivano da una realtà che produce tante nuove tecnologie. Ascoltate questa intervista che Alessandro Re della nostra redazione di Moebius, che cura anche intelligenza in prima linea, ha fatto a Neil Harbisson, un artista, compone musica, dipinge, ma è affetto da un deficit visivo non da poco, vede solo in scala di grigi. Nel 2010 Neil si è fatto impiantare sul cranio una piccola antenna, un sensore che registra i colori e trasmette al suo cranio vibrazioni diverse per ogni frequenza intercettato. Alessandro Lei l'ha intervistato e io doppierò la voce di Neil. Allora, andiamo dritti al punto. Come fai a vedere i colori? Beh, io non vedo davvero i colori, io ho la acromatopsia, quindi vedo in scala di grigio, però ho sempre voluto vedere i colori, percepirli, ma senza modificare la mia vista. Ecco perché ho ideato questa antenna nel 2004 che mi permette di percepire i colori attraverso un organo indipendente, senza usare i miei occhi o altri sensi. L'antenna coglie le frequenze di luce dei colori e invia delle vibrazioni alle ossa. Quindi io percepisco queste vibrazioni che vengono trasmesse al cervello e trasformate in suoni interni. Ecco perché dico che sento i colori, perché posso sentire davvero il suono delle vibrazioni di questi colori. C'è anche una connessione internet affinché le persone mi invino dei colori al mio cervello da sentire, e posso anche collegarmi ai satelliti per sentire i colori dello spazio. E questo è proprio un nuovo organo che mi permette di avere una percezione più estesa dei colori, che va oltre lo spettro standard dei colori stessi. Quindi possiamo davvero parlare di una espansione sensoriale, di un allargamento dei sensi? Sì, decisamente. È la creazione di un nuovo senso, è un nuovo tipo di stimolo. E la vibrazione interna delle ossa è un nuovo stimolo anche questo. Infatti posso sentire al di là dello spettro standard dei colori, posso percepire anche gli infrarossi e gli ultravioletti. È un nuovo senso, un nuovo organo sensoriale allo stesso tempo. E come lo chiami questo tuo nuovo senso? Non ha un nome specifico, anche perché è difficile trovare le parole per questo senso che va oltre lo spettro dei colori. Ma in buona sostanza si tratta di sentire lo spettro, perché interagisce con le onde elettromagnetiche, quindi potremmo chiamarlo proprio spectrum sense. Spectrum sense, quindi lo spettro sensoriale, diciamo, ciò che sente lo spettro dei colori. E suona bene, in effetti, mi sembra un buon nome. Ma c'è un limite in questa scala di colori che tu riesci a percepire? No, non c'è un limite, ma ci vuole tanto tempo perché il cervello capisca, impari e memorizzi tutti i colori e possa distinguere da una sfumatura all'altra, anche perché c'è differenze da percepire e sentire. Per esempio, io posso sentire, come dicevo, anche gli infrarossi, ma gli infrarossi poi differiscono molto tra loro. E quindi il cervello ha bisogno di tempo per capire e identificare queste diverse frequenze. La maggior parte dei colori che io sento in questo momento, infatti, sono invisibili per voi umani. E questo infatti è il motivo per cui tu parli di un miglioramento del tuo corpo e dei tuoi sensi, giusto? È per questo che inviti i non cyborg come noi a seguirti in questo cammino verso una nuova umanità, verso una nuova era cyborg per gli esseri umani. Beh, chiunque deve essere libero di scegliere cosa fare o diventare e se espandere i propri sensi oppure no. Di sicuro però dovremmo avere la possibilità di scegliere, di ridisegnare il nostro corpo, di scegliere quali organi migliorare e sostituire, di scegliere se espandere oppure no la nostra percezione sensoriale. E com'è stato? Cosa hai sentito quando hai percepito un colore per la prima volta? Beh, all'inizio per me percepire i colori era molto caotico, non aveva senso, mi confondevo perché ricevevo vibrazioni dappertutto e in ogni istante. Mi ci sono voluti mesi per dare senso a queste mie nuove sensazioni e per memorizzare tutti i colori dell'arcobaleno. È un processo lento e faticoso, perché questa non è intelligenza artificiale, ma è sensazione artificiale, SA e non I. IA, se l'antenna mi dicesse i nomi dei colori sarebbe intelligenza artificiale, ma questo nuovo senso non è direttamente nella mia testa, me lo devo allenare io da solo, è la mia mente che crea nuova intelligenza, devi allenare te e il tuo nuovo organo e questo processo può durare anche degli anni. Thank you very much, Neil Harbison. Thank you. Adesso non è Neil che parla, ma sono io. L'avete sentito nell'intervista, lo dice anche lui, quella non è intelligenza artificiale. E si è realizzata una soluzione tecnologica e neurologica che si è interfacciata con una intelligenza umana però. Tuttavia, non vi sfugga un particolare molto importante. Neil dice che ha dovuto fare un gran lavoro per dare un senso mentale alla corrispondenza tra una frequenza cromatica e una vibrazione sonora. Un gran lavoro di apprendimento, quindi. Insomma, si è comportato come l'algoritmo che compone musica, di cui vi dicevo prima. Buona intelligenza a tutti e a tutte. La mail intelligenza artificiale @radio24.it.